Europa 24. Buongiorno da Europa 24, buongiorno da Laura Bettini. È una giornata ricca oggi a Bruxelles, dove si tengono il Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri e quello dei Ministri dell'Agricoltura e della Pesca. All'ordine del giorno del primo, cui partecipa anche il Ministro Bonino, c'erano il Medio Oriente, quindi Iran, Siria, Libano, rapporti tra Unione Europea e Russia, Repubblica Centrafricana, Balcani Occidentali, Birmania, ma la scena almeno in mattinata l'ha rubata l'ipotesi di accordo di associazione dell'Ucraina con l'Unione Europea, accordo che è sempre sul tavolo, ma che dopo l'incontro tra il commissario europeo per l'allargamento Füle ed il vice premier ucraino Arbuzov a Bruxelles sembra congelato. Non c'è stato un chiaro impegno da parte di Kiev, ha detto Füle. Comunque continua la discussione su questo tema a Bruxelles, dove è arrivato anche il ministro degli esteri russo Lavrov. Catherine Ashton, l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, non pensa comunque che ci saranno conseguenze per i rapporti tra l'Unione e la Russia. Quindi parliamo della situazione in Ucraina, dobbiamo guardare seriamente a come questo paese prende le sue decisioni, dice la Ashton. Meno accomodanti sono stati all'inizio del Consiglio i ministri britannico Hague e svedese Bildt, secondo i quali la situazione mette invece tensioni nelle relazioni tra Russia e Unione Europea. Questo invece è il consiglio decisamente euroscettico agli ucraini di Marine Le Pen, leader del Fronte Nazionale francese. Certo, dice, ci sono manifestazioni, è incontestabile, ma sono davvero maggioritarie? Io non credo, e soprattutto sconsiglio decisamente agli ucraini di entrare nell'incubo, dice, sociale ed economico che è l'Unione Europea. Fronte Nazionale francese che da ieri è ufficialmente alleato della Lega Nord in vista delle europee del prossimo anno. Euroscettici crescono, l'appello lanciato da Marine Le Pen prova a muovere i primi passi concreti in vista dell'appuntamento con le elezioni europee del prossimo 24 maggio. C'erano tutti o quasi ieri a Torino al congresso della Lega, l'occasione per contarsi e riflettere. Non a caso l'ospite d'onore del carroccio di Matteo Salvini, pur sempre eurodeputato, è stata proprio lei la signora della destra francese. Ma in platea hanno trovato posto gli euroscettici olandesi, che a casa propria incassano il 20%, gli austriaci, eredi di Haider, i fiamminghi, gli svedesi, non i greci di Alba Dorata che per ora restano isolati, non i britannici euroscettici che invece in molti corteggiano. Tra il sogno di Marine Le Pen di un gruppo euroscettico che siede in Parlamento e chi a Bruxelles vorrebbe solo protestare, insomma, le prove di campagna elettorale sono ufficialmente partite. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Infine dicevamo che a Bruxelles oggi c'è anche il Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura e della Pesca. Per il ministro De Girolamo sarà l'occasione di opporsi al sistema di etichettatura a semaforo introdotto dalla Gran Bretagna. Va all'attacco oggi a Bruxelles il ministro per l'agricoltura Nunzia De Girolamo. L'offensiva è contro il sistema di etichettatura alimentare a semaforo introdotto dalla Gran Bretagna e che rischia di bollare come malsane le eccellenze del Made in Italy e le oltre 1000 eccellenze europee, di cui l'Italia è comunque leader. Il sistema utilizza una gamma di colori, rosso, giallo e verde, per evidenziare la quantità di grassi saturi, zuccheri e sale nel cibo. Rosso è un cibo carico di grassi, verde tutto ok, giallo siamo al limite. Un sistema certo di comprensione immediato, se non fosse che le indicazioni di queste etichette sono fuorvianti, cioè nel tentativo di semplificare il messaggio disperdono tutta una serie di informazioni sulla qualità del cibo. Finisce allora che hanno semaforo rosso il parmigiano, il prosciutto crudo, il lardo di Colonnata. Un duro colpo. L'Italia fattura infatti con l'export del cibo agli inglesi 2,25 miliardi di euro. Per questo, e non solo, oggi il ministro Nunzia De Girolamo porterà il tema in Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura. L'Italia non è sola, c'è già un largo schieramento di paesi sfavorevole al semaforo. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci fermiamo qui, Europa 24 vi dà appuntamento a domani. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.